Roboamo, giunto a Gerusalemme, convocò la stirpe di Giuda e di Beniamino, 180.000 guerrieri scelti, per muovere guerra contro Israele e così restituire il regno a Roboamo. Or la parola di Dio fu rivolta a Semaia, uomo di Dio: di a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, e a tutti gli israeliti che risiedono in Giuda e Beniamino, così dice il Signore: non salite a combattere contro i vostri fratelli, ritorni ognuno a casa sua, perché sono io l'autore di questo fatto. Ascoltarono le parole del Signore e ritornarono indietro senza marciare contro Geroboamo. Roboamo risiedette in Gerusalemme e trasformò in fortezze alcune città di Giuda. Ricostruì infatti Betlemme, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adullam, Gat, Maresa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeca, Zor, Aialon ed Hebron. Queste città fortificate si trovavano in Giuda e in Beniamino. Egli munì queste fortezze, vi prepose comandanti e stabilì magazzini di viveri, di olio e di vino. In ogni città depositò grandi scudi e lance, rendendole estremamente potenti. Giuda e Beniamino appartennero a lui. I sacerdoti ed i leviti residenti in tutto Israele si riunirono da tutto il loro territorio presso di lui. I leviti, infatti, abbandonati i loro pascoli e le loro proprietà, si recarono in Giuda e a Gerusalemme, perché Geroboamo ed i suoi figli li avevano esclusi dall'esercitare il sacerdozio del Signore. Egli, invece, si era costituito sacerdoti per le alture, per i satiri e per i vitelli che egli stesso aveva fabbricato. Dietro l'esempio dei leviti, quanti, da tutte le tribù di Israele, avevano deciso in cuor loro di ricercare il Signore, Dio di Israele, si recarono a Gerusalemme per offrire sacrifici al Signore, Dio dei loro padri. Così consolidarono il regno di Giuda e sostennero per 3 anni Roboamo, figlio di Salomone, giacché per 3 anni si camminò seguendo la via di Davide e di Salomone. Roboamo si prese in moglie Macalat, figlia di Jerimot, figlio di Davide, e di Abiail, figlia di Eliab, figlio di Jesse. Essa gli partorì i figli Jeus, Semaria e Zaam. Dopo di lei prese Maaca, figlia di Assalonne, che gli partorì Abia, Attai, Ziza e Selomit. Roboamo amò Maaca, figlia di Assalonne, più di tutte le altre mogli e concubine. Egli prese 18 mogli e 60 concubine e generò 28 figli e 60 figlie. Roboamo costituì Abia, figlio di Maaca, capo, cioè principe, tra i suoi fratelli, perché aveva stabilito di farlo re. Con accortezza egli disseminò tutti gli altri suoi figli nelle varie contrade di Giuda e di Beniamino e nelle varie città fortificate. Diede loro viveri in abbondanza e li provvide di molte mogli.